Il punto di Stefano Folli. È appena il caso di ricordarlo, la legge di stabilità che il governo si appresta a varare non è solo un documento economico rilevante, è il principale atto con cui l'esecutivo e la maggioranza che lo sostiene definiscono se stessi e il proprio rapporto con il cosiddetto paese reale. È o dovrebbe essere un manifesto politico compiuto, qualcosa in grado di dare un senso anche alle infinite diatribe che segnano le cronache politiche nei mesi precedenti. Speriamo che Letta non perda l'occasione, ma i dubbi sono tanti. Ci sono troppe contraddizioni in campo per stare tranquilli. Il Sole 24 Ore ha appena documentato l'incredibile spreco dei 15 miliardi che finiscono nel buco nero delle società controllate o partecipate dagli enti locali. Sul finanziamento pubblico ai partiti lo stesso governo ha alzato, a quanto pare, bandiera bianca. La tassazione continua a salire a livelli di vera vessazione del cittadino. Insomma, la legge di stabilità dovrebbe gettare un ponte di fiducia verso chi lavora, ma le premesse, diciamolo, non sono incoraggianti.